La preghiera, Matteo 21, 22 dice, fa dire a Gesù, tutto quello che chiederete con fede nella preghiera lo otterrete. Sarebbe bello ragionare un po' sulla preghiera, Perché uno dice, ma non è vero. Ne ho chieste di cose non... e dovremmo approfondire, amici. Ci manca il ragionare, il meditare sulla nostra fede. Per questo io oggi vorrei offrirvi una riflessione sulla preghiera a partire dal Salmo responsoriale che abbiamo letto, il Salmo 15, 16. Facendo questo ragionamento, prima di leggervelo, pregare tante volte è molto facile, perché il tuo cuore esplode in un grazie, esplode in un sentimento. Altre volte pregare è molto difficile. Ho provato a sentire gente che dice, sì, ma non so che cosa dire. Io penso che i salmi ci insegnano, e vediamo questo salmo, a pregare in due modi. Primo modo, una preghiera diretta, immediata, in cui mi rivolgo a Dio, proteggi mio Dio, in te mi rifugio. Questa è una preghiera, ci rivolgiamo direttamente a Dio, addirittura con questa fiducia che usiamo l'imperativo, quasi un comando, proteggimi, insomma ci vuole del fegato a rivolgersi così a Dio, no? Però il Salmo usa questo modo di pregare, un modo diretto e un modo indiretto. Moltiplicano le loro pene quelli che corrono dietro a un Dio straniero. Io non li pregherò mai. Questo è un modo indiretto di pregare, esattamente per fare un esempio come nell'amore. Se tu dici a una persona direttamente ti amo, è subito immediato questo modo di parlare, ti amo. Se tu, per conto tuo, anche a distanza, nel tuo cuore ti nasce dentro un sentimento di tenerezza, dici, mamma mia, come gli voglio bene, come lo amo, anche questo è amore, solo che non glielo dici direttamente. Ecco, la nostra preghiera tante volte è fatta così. O tu lo dici direttamente, o tu lo dici indirettamente. E il Salmo ci insegna tutti e due i modi. Per esempio, proteggi mio Dio, io mi rifugio in te. Ho detto al Signore, sei tu, Signore, l'unico mio bene, più preghiera di questa, immediata, diretta. E poi c'è un altro modo indiretto, ma che è ugualmente preghiera. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra. Mi sento protetto, non vacillerò mai. Ecco, se noi diciamo così al Signore, Signore, io sento che io sono in pace solo quando sono con Lui. E poi il Salmo ritorna ancora alla preghiera diretta. Mi indicherai il sentiero della vita. Gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. È facile pregare i salmi, però devi dargli tempo. Noi questo salmo responsoriale l'abbiamo pregato dopo la prima orazione, dopo la prima lettura. Non so però se siamo stati così attenti. E d'altra parte capite che per pregare bene la parola di Dio nella messa bisogna che ci torniamo su. perché a scuola l'insegnante spiega la lezione e poi magari ti dice: ecco, tornate a casa, provate a dargli ancora una sguardatina, in modo che quello che avete sentito poi lo approfondite per conto vostro. E magari uno sì, aveva goduto sentendo l'insegnante parlare di quell'argomento, ma tornando a casa e riaprendo il libro e guardandolo ci trova dentro dei passaggi che non aveva mai notato. Io lo auguro anche a voi, amici. Ascoltare va bene, ma riprendere, ruminare, meditare, mangiare questa parola di Dio e trasformarla in una invocazione di preghiera è un approfondimento.